Così viene chiamata Varsavia, la città fenice, soprattutto dalla ricostruzione nel dopoguerra che aveva distrutto la maggior parte degli edifici. La storia della Polonia è segnata da periodi di grande potenza ma anche di sparizioni, cancellata addirittura dalle mappe per oltre un secolo, riconquistando l'indipendenza nel 1918. La Seconda Guerra Mondiale ha avuto un impatto significativo sul paese. Dopo la guerra, è stata sotto l'influenza sovietica fino al 1989, quando il movimento Solidarnosc ha giocato un ruolo cruciale nella caduta del comunismo. La Polonia è ricca di tradizioni, folklore e un patrimonio culturale che spazia dall'architettura medievale ai festival contemporanei. Molte figure storiche e culturali rendono importante questo paese, come Niccolò Copernico, Marie Curie-Sklodowska, Frédéric Chopin e Papa Giovanni Paolo II. Non possiamo non citare anche la pallavolo, vero sport nazionale che negli ultimi anni domina i primi posti nelle competizioni internazionali, ma che ci sta qualcuno de Castello che ci ha giocato a pallavolo. La Polonia è ricca di piatti e ricette street food. Una delle più conosciute è la zapiekanka, che risale agli anni 70 e che ultimamente è tornata di gran moda. Facilissima da preparare. Il suo nome deriva dal verbo zapiekak, che vuol dire infornare, e ricorda proprio la cottura di questa pietanza che è anche molto ricca di sapore. Per quanto riguarda la parte alcolica, i polacchi sono grandi consumatori di vodka. Qui è stata creata una variante alle erbe che ha dato vita a diverse combinazioni molto interessanti. Curiosando sempre online, abbiamo trovato molti spunti per presentarvi tre cocktail tipici. Per questa serata ci dirigiamo nel quartiere Sbavicela, dove assaporare la zapiekanka. 15 euro per salire a bordo di un food truck e assaggiare questa baguette infornata. Un proverbio locale dice: non parlare con la bocca piena. Grazie per l'ascolto.